renunce, sta niente a riscio, renunce, sta niente a fa. Si che non ci rispetta, ne c'è ma fa rispetta. Sento quello che rappresento, vedo luce anche se il sole è spento. E vivo ribellione da suburdel, ciovo merda la bombrella. Questa è la gente mia che sogna, in uno stato ormai l'agonia. Mi sono nato con battello, un danno vendere strane. Non so mai niente, manca niente. Il compromesso, c'è l'ultimo panno d'osso, ma faccio in merda. Ero stonchina, la gente si getta. Copa che butto e ti prometto assistenza. Io ti ricordo che devi stare alle regole. Tu regola la roba che potere ti ammanata. Casa mia è l'inferno, mi sono sicuro che a noi ci pensa manco pataterno. Oriava la cacciacca, cravatta, testa ripartita e poi normale capo gip che preta. Mi sei rifiuto, mi rifiuta ancora, la tolleranza è finita ora. Brucia la pezza sulla bottiglia, rin-